su, è Claudio Visiti. Bravo, Michi. Gio Maria, mi senti? Vittorio, parla Vittorio. Graziano. Gio Maria, Claudio, sono, parla Vittorio. Pure Graziano. Claudio, Gio Maria, e io. Ma aspetta un po', che faccio? Claudio, Vittore, mi senti? Mi sentite? Parla Vittorio. Parla Vittorio, mi sentite? Passo. Gio Maria, mi senti? Mi senti? Mi sentite? Parla Vittorio. Claudio, Graziano e Claudio, mi sentite? Gio Maria, Coso, Ettore, mi sentite? Don Vittorio, passo. Gufo, ci sei? Ci sono, su, cielo. Ciao Gio Maria, e beh, buonasera. Ah beh, per la televisione. Ho mandato un messaggio a Graziano su WhatsApp, però non mi ha, l'ha visualizzato, però non è entrato. Io sono in fase di guarigione, Gio Maria, mamma mia, per carità, un'altra nottata oggi, ieri notte, per carità, manca Riggani. Passo! Siamo messi, passo! Sono basso, Gio Maria, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Adesso va bene, perfetto. Ah, ok, io sono sempre nella stessa posizione, capito, in camera da letto. Vabbè, ma come si prendia, capito, era bene, anche se... Guarda, c'è anche Vitruzio, avanti Vitruzio. Ah, ma non ci ha detto, non risponde. È già un'oretta e più, se vedi. Prende la solleria, va avanti. Io, quanti mai non rispondi? Sta uscendo anche basso lui, No, e poi ci arriva bene. Dove sei? Vitru? Allora sono io Salesiani. L'oratorio Salesiani dov'è? Allora, te dolce, cioè, siamo vicinissimi. Sì, perché ne posso lei? Parlami come ti dice, ma sta vicinissimo. Luca mi chiamo, vicinissimi. Eia, vicini, vicini. Io sono qua... vicino alla chiesa, dai, più o meno. Allora passo, non sei veloce, tiri su. No, mi sono influenzato, su Galletto, da rimani. Ui, è proprio come me, non ne posso pigliare a freddo, no. No, non ti ho sentito bene, non ho detto. Che sono influenzato, non posso uscire. Sto venendo allora, No, che non posso uscire, sono influenzato. Ho detto che sono a letto con l'influenza, capito, non posso uscire. Gio Maria, ma tu bene lo senti? Vabbè, da me sei a bomba, sarebbe benissimo. Tu è bene dai palazzi, avanti, capito? Infatti, no, a me arriva bene. Che per quello che mi arriva a tratti? Beh, in effetti basta un ostacolo in queste frequenze, un casino. Tu sei meglio di me, perciò... e ti crea problemi. No, ma non c'è Ettore qua, quella è Gio Maria, ma non ti sente bene, capito? Ti sente a tratti. Ah, è vero, comunque c'hai i walkie talkie, va, il PMR professionale. Sì, diciamo PMR 46, ma niente. Tu mi senti bene a me? Mi sento di voi? Vabbè, tanto siamo vicini. Adesso Gio Maria c'ha una radio che non serve a niente, vero Gio Maria? Adesso magari sarà migliore, dai. E infatti, c'era con lo scarabacchio poco fa. E fa arrabbiarsi. E infatti. E ho pagato 10 euro per forza. E non vale la pena, però. Ogni tanto già si fa sentire. Vero, Lu? E allora, Gio Maria c'ha solo cose che non servono a niente, capito? Bisogna regalargli qualcosa di serio anche a lui. Allora Gio Maria, domani te lo regalo io, vado a comprargli una a me e una a te, beh anda. E fai così allora, Lu, dai. Ma quelli da 50 euro, come ha detto l'amico? Quelli a 50 e a 60, cioè uno per uno. A fare fatta, allora facciamo così, lo. Domani compra e me ne dai uno a me, dai. Due amazzane a risetti, andu, forse la vira per comprarlo. E domani verso 8 e mezzo, tu su qualche casa due ti arrivo, eh. Non si questione chissà tanto. Sono di 10 km già per andare alla grande. Chi sono in Manzano, Luca? Alza, te ne preso per quello, in prima fila. Fai la prima mano tu. Allora il discorso può essere anche 50 km, però se c'è un ostacolo ti dà problemi lo stesso, capito? L'unica è, vabbè, che noi non lo possiamo detenere, solo un radioamatore, quello fisso con l'antenna sul tetto. Capito, Vittorio? Non si può detenere quello fisso. Quello sì che riesci a parlare tranquillamente, perché l'antenna è sul tetto e non trova ostacoli. Sì, perché questo vescovo è portatile. Ma vabbè, quello che mi ha detto Claudio l'ho letto, è un PML da quella scema. Ma c'è proprio a vero. E quello Gio Maria ci ha messo a un chilometro, così è Gio Maria, un mezzo chilometro. 500, 600, fai 600 metri, là. Vabbè, te lo regalo io visto la tesi, là. Serve più manno, pure da 15, là. Regalino per la Befana, te lo porto io. Infatti, un regalino per la Befana, già me l'ho fatto, dai. Aspetto, Allora aspetto, capito, Lu? Mi raccomando, Falli la prima mano a quello lì. È minimo. Ma Graziano, gufo, ci sei? Per sbagliare, grazie, come? Provo io a saltarlo. A ruotare, Ma dove te l'hai comprato questo PMR, Vito? Vito, dove l'hai acquistato? Il tuo, Da 5 euro. Me l'ha dato da 440 metri, va bene, mi ha beccato qui, da 50 euro alla grande. Ma sei giovane tu dalla voce, avrai, non si ho una ventina d'anni, 25, dai. Sì, a 6 anni, per il modo di parlare che hai, capito? E male il timbro della bella dipende anche dalla radio. A me quanti anni mi dai? Non di galera però, Quanti anni mi dai a me? 5. Bravo, 44. Vabbè, dai, purtroppo anche la timbrica ti, come si dice, ti cambia il tono della voce. Andare, Gio Maria, giovane questo Vittorio, dai, giovane, noi siamo ormai anziani. Noi 16 anni, quanto c'ha? 16 anni mi sembra, no? Eia, 16 anni. Da dove l'ha comprato le portate da Troni, così, Sì. Gio Mari, casa giù con paranda, me l'hanno regalato. Se riesco a beccare, già riesco a prenderti. Anche qua ci sono, non sapevo che Troni vendeva questa cosa. Pensavo l'avessi preso da eBay, su eBay. Lo sapevo, anche a Sassari c'erano questi qua. Mi hai detto di questi che c'è da PX390 mi sono questi, il modello. Prendo da qua, sicura. PX390. Ma da Troni, ma questi da chi si chiama di voi? Vabbè, quelli che ci avete voi ci appendono lo stesso. Minimo chi si chiama di voi, cazzo, minimo avete pagato, minimo 1200. Non ho capito niente, perché l'ho sento a tratti lui. E vuol fare come sono, quelli fissi oppure quelli a portate? Lui l'ho sento a tratti, cosa ha detto? Ha detto che apparecchi abbiamo noi, rispondilo tu Gio Maria, io sono portatile, tu Gio Maria, cosa c'hai? Il portabile? Anch'io c'ho portatile, è mio piccolino, c'ha 12 canali il mio. E il mio 11, come mai tu lo dici il mio 11? Ma la so lungo. Evidentemente l'ha fatto così, che c'è? 12 canali c'ha questo. No, ma perché io sono da 8 canali, non è che c'ha 10 da 11, la mia sono una portata. È la frequenza che te l'ha messa. No, quelli sono canalizzati, io non ho capito. Sì, ma a me mi segnano due numeri. Faccio su canale, qua c'è un 3-1, mi sembra che è un codice, non lo so, una cosa del genere. Va vado bene, Milù. Vado bene, hai visto? Se l'avessi messo l'antenna serra, quello va forte. Sì, ma non si può mettere perché l'antenna non si può staccare. Bello, E tu con il gommino sei? E allora, con il gommino? Io sai che non ho altro. Infatti, ma io ci basta, dai. Già ci basta a noi, a Puglia, capito? Per noi a ci basta, così l'antenna piccolino, sei tranquillo. 12 canali, a Puglia. Fatto l'avversamento, Gio Mari, sì? No, non ci sono andato, ci domani mattina devo andare tu. Che non sono uscito per niente oggi. Invece domani vado a prendermi l'acqua e quando ritorno passo le poste e mi faccio il versamento, capito? Così che oggi non sono potuto uscire in quanto ha avuto problemi alla macchina, capito? Io oggi già ho fatto come su più, ma non perché l'ho voluto fare, perché c'avevo i soldi, per la fila, è che quel giorno lì non c'erano pensioni. Sono andato e ci ho messo un attimo, se no una volta che entri in Chivi, buoni 2-3 euro va a pagare un coso, un bollettino. Vabbè, c'è tutto il mese di gennaio, non è che già c'è tempo. No, io ripeto, l'ho compilato ieri sera e stamattina dovevo uscire, ma non sono potuto uscire, capito? Sì, che invece vado domani mattina e tanto devo uscire a fare la spesa. Allora, prima di rientrare, passo le poste e faccio il versamento, capito? E sono tranquillo, dai, anche per quest'anno. Ok, e Vittorio ha fatto il versamento. Aspetta, Mario, un attimo, sono al telefono. Vittorio, tu hai fatto il versamento? Sul versamento, sì, ma se sul versamento, ma tu ma così. Non l'hai fatto. Allora, occhio, che sono in borghese mi passeggiando la finanza, da te ce lo conto, dove c'ha 20 anni va a pagare la multa. Vabbè, già l'ho pagato, ma non è che ruba quella 16 anni, no, Gio Mari? Tu in testa la tua padre e parli anche, parli tu, così che non vi sono problemi, capito? Però non ti fare trovare in strada, perché se ti beccano in strada sono cavoli tuoi, non per altro, Beh, Giovanni, chi tu vuoi avere ragione, ma ricordo che bisogna pagare sempre, no? La licenza, ma per un BMR bisogna pagare sempre, se no, si apparecchi tu, ormai va senza licenza, non puoi più pagare, ormai anche se c'è poi senza licenza, sei sotto secco, Giovanni. Ma per adesso tu, pigli un bollettino, l'intesi a tesoreria dello Stato, almeno lo paghi, se ci dovessi da trovare c'hai il versamento in tasca e sei più tranquillo, capito? Anche se non hai fatto la domanda. L'importante è che tu ci abbi provvisoriamente in tasca nel momento il versamento che tu hai pagato il canone, capito? Quello è molto importante. Però la domanda la devi fare ugualmente adesso, Sì, ormai, vabbè, che aver ragione, ormai, la lenta licenza. Giovanni, mo giocati, Giovanni. Vedo un po' tu, Vittù, Ripeto che non che è una cosa seria questa qua, non è un bicchidocchi normale, capito? Per cui sono sempre in giro, in agguato, capito? Ecco perché te lo sto dicendo. Mentre invece quando c'hai il versamento sei più tranquillo. E ormai quando un vecchio apparecchiato, ormai la licenza di avere bacca. Ognuno hanno beccato mio amico, gli hanno fatto 200 di multa, perché ci è andata in contatto con la polizia, gli hanno fatto un casino. La CS, va, ma per un babbo, ti racconto un altro, fate i giganti di legno. Boh, per tu già te l'aveva detto anche Claudio queste cose, non c'è bisogno di dirtelo io, perché sono cose delicate, capito? Bisogna stare molto attenti e se è possibile fai il versamento, capito? Poi fai la domandina, almeno dopo sei tranquillo puoi chiacchierare, però non è che te ne puoi andare in giro per le strade chiacchierando, capito? Perché sono sempre in agguato, capito? Ti sei ovvio, no? Ma ti ti ho detto, quando sono studiato come ho fatto un ruggito, era in questo, con la stessa, la struttura, mi hanno fatto un pezzo. Eccomi Gio Maria al telefono, con un amico che domani mi porta un computer a sistemarglielo. Ma chi sono questi che stanno parlando? Stanno sopramodulando ad altro amico. Boh, non lo so Gio Maria chi sono. C'è un volume basso io. Ah, ma non li senti? No. Stavo parlando quando stava parlando l'altro amico. Non si capiva niente quello che diceva, capisci? Vabbè Mari, perché non sono inesperti e si sovramutano uno con l'altro, capito? Già impareranno prima o poi, come abbiamo imparato noi, imparano loro. La cosa più importante è che si comportino bene, senza dire parolacce, sempre educati, e allora è tutto un altro discorso, capito? Ma infatti bisogna essere corretti, senza dire parolacce, giusto? Ogni tanto può scappare una, va bene, ma no, di continuo, dai, non va bene. Vediamo un po' se risponde lo chef, è strano che non si è fatto sentire ancora. Attento signor Graziano, deve essere indaffarato Graziano, deve essere la Vendelbiati, oppure un Francendi la roba. Francendi la roba sì, su. Non si può pranciare, un po' non si fa male. Siete venuti a pranciare a noi. Già l'ho sentita, buonasera signora. Buonasera. Gli da qualche cosa a Luca, cazzo, che è raffreddato, cazzo. Io non riesco nemmeno a respirare. No, c'ho questo colpo di tosse, Giovanni, lui. Infatti volevo andare a prendere lo sciroppo lì a Lausanne. Pensavo ce l'avevo solo dopo. Tanti piligna mi prendo. Macello è brutto, ma è tutto brutto, perché la tosse, cazzo. Il mese scorso avevo un po' di tosse, dalla notte non mi fate a dormire e non fate manco dormire a Edda. Cazzo, ti puoi immaginare. Bene o male mi è calmata, però ce l'avevo un mesetto, Ma cos'è che l'ho preso? I sciroppi non ne parliamo, di tutti i tipi. Poi ho parlato la tachipirina. Già mi è calmata, bene o male, adesso sono più tranquillo là. Gio Mari, per medicinale, purtroppo quando ci vuole la devi prendere, sennò è un casino, non ti basta. Lo so. Io ho mal di testa da pranzo io, Gio Mari. Però sto aspettando a fare la cena, così mi prendono una buzzina o una tachipirina. Dici, no, se la biglio la vada, poi la devo bigliare un'altra, no? Aspetto, c'ho questo mal di testa che è fastidioso. Ma mi sente Gio Mari? Stavo parlando sopra, A momento ti coprono. Lo so, io per dire, non è che ne posso abusare, perché già lo sai che sono diabetico io, e per cui, se no, il cortisolo lo fa passare, però non lo posso prendere nemmeno il cortisolo, così che certe volte devo tirare avanti così alla bella meglio e tira a campare. Di solito io prendo, come si chiama, il mesurì, quella bustina del mesurì. E mi alleggerisce, capito, un po'. però magari per 2 o 3 ore non riesco a dormire la notte, capito? Io sto dormendo male, adesso questa qua è la seconda notte che non dormo bene. Con un freddo, poi sudi, un casino qua, per carità. E adesso vediamo, stanotte. Vediamo un po' con un'altra pastiglia che mi prendo dopo cena. Infatti oggi dovevo uscire, ma rimaniamo a casa, capito? Io me ne vado a casa. Beh, non è che posso stare in Chivi, cioè, no, non fa Giomari, mi sento male, non mi sento bene. S'accorgo oggi. Cosa Giomari? Pillola. Pillola mia. Cuffo, e che facendo c'hai? E allora, no, come se te cucato a panzeraggio, come ti dì la scroffetta, Ma chi io? E ancora io, sempre lamentando, sai. Mi sto lamentando, mi sento male. Cazzo, E mi sono lamentato, andiamo avanti Giovanni, mi sei tacazzicato, graziato, andiamo avanti. Come il solito, il dito facile. Bisogna appesarvi un dito, quella mazzetta. Dilli cosa devi fare, passare un raffreddore a Luca, dillo cosa devi fare. Amore devi fare, vedi che sfoghi tutto, digliela la tua 25. Tu così fai, perché quando sei malato fai l'amore con Rosy. E allora, se cosa vorrà tutti, sarro la liana e la cupura, la chiave, la zuppa, non si sa mai che tra cacche e lui. Ma lui si vuole un naso, si vuole. E allora, infatti, cosa? A me è tutto andato a farsi benedire. Tutto muscio. E allora, mi applico la pompetta. Oh yeah! E di la foce. E solo con un naso li può passare. Solo un naso li può passare, grazie. Diversamente, già mi sa che non è possibile. E vabbè, là, lì abbiamo lasciato il parcheggio a Vittorio, ciao a tutti comunque, ciao anche a te Vittorio se sei in ascolto. Oggi mi hanno fatto vedere stelle, mamma sul lato tutto robusto, questa assassina. E da poi alla fine la dice cammina tirando il lago e vai dinni in fretta, dai no che prima che mi ne beccio. Le stelle Gio Mari mi ha fatto vedere e non per ridicita. Hai fatto le mogasse? E allora l'ho fatto 10 giorni fa e è andato così così. Oggi mi ha crepato vista, era un'altra, una tirocinante. Poi me l'ha fatta al medico ed era così così. Insomma, faccio un dolore al braccio, paralizzato mi rane, ma lo sa il mio dolore, quasi quasi mi piccio sotto. Ma cosa l'ha paralizzato, il braccio o gli appi? Il braccio, a chi le mogate di rubare la figlia da Rubuzzo, dall'arteria di Rubuzzo. E non ridici a cattarla. Oh io, il mio dolore, ma dolore. Cosa tu vuoi, che ti parli, sai cosa è, grazia, che tu non sei riuscita a farlo quello, perché sei anni e anni che non fai l'amore. Vero è Gio Mari? E allora, infatti, visto l'hai, quello devi fare, grazia. Mi ha detto che mi si ricusi fuori da camera da letto e mi gocco. Il divano letto e sta friccia a Trento, a chi sono cugnati rompendo di la massa. Ah, secondo me Gio Mari non gli dà di Paoletta, finito va. Sì, viene Sferri su il Pirà, viene Sferri su il Pirà. Anche è pericoloso, capito? Da voi vivo le bombiere a Tanniro. Già regata a chi li fanno e l'ha comparato un caschetto. Aspetta di lui. No, non ho capito cosa ha detto. Ripeti, grazie, che non ha capito Luca. Ma andare a casa a chi li fanno con il caschetto. Oh, di filo. Se ti intendi da io ti vuole accurriti i buoni. Gio Mari, comunque sul nome ormai finita, Emmy. Gio Maria, mi ascolti. Signor Bacchisio, buonasera, ben sentito. Hai tesi, si sta portando a rosa chi fai? Ma chi? Buonasera a tutti, belli e brutti, tutti canti. Graziano, se non hai fatto lo prato, a me mi pare sia qualcosa che l'hai fatto. Sentito, e allora? Chi sa assassino e assassina, chi erano in due? E non solo, ma ha detto che sono con bordo un bel mare, a mamma vuol vedere un mese che entra. La gente sono venuto 10 giorni fa, adesso oggi, anche fra un mese, sì. Speriamo sia lunga, che si è sbagliata di vedere le cose. Capito? Va tutto bene, grazie. Prendi la filosofia. Avanti, Luca, buonasera. Buonasera anche a Vittorio, perché ho sentito Vittorio ho soprattutto l'azione. Avanti, Luca. Ciao, Bacchi, salutoni, buonasera anche a te. Ma Graziano è di chi si babba, la bruno fa zinuta, tu sempre, io qua, io là, la bruno fa zinuta. Non è così, Giomari, tu lo conosci meglio di me. Ma lo sappiamo, no, cazzo. Cazzo, questa patologia è molto pericolosa, capito? Ripeto, se lo è salvo che si mette un montecarico sul tetto, passa il nido da voi. E allora, ma dite a non fare sforzi e a camminare piano, che se no, ciao a buonanotte al secchio. Vabbè, se intendi Paoletta, disegni che vuole fare l'amore, è buono a corrido, buoni, oia. Quando tu vuole a corrido non fai nulla. Ciao Vittorio, è bene, bravo, è fatto oggi. Vittorio. E chi si fa vedere, quando si fa vedere di tu, fa vedere Edo. Ti ha messo capizzato, Vittorio, ha messo. Dispetto, forse è chiaro, grazie, beh, fatti avanti. Eia, ho detto, sei fatto da bravo oggi. Eia, non credo che ho fatto da bravo, oggi sono lo salesiani. Beh, oggi mi hanno fatto la puntura, oi oi. Chi ti l'ha fatto la puntura, grazie? Il dottore mi l'ha fatto, il dottore. Un veterinario. Vai, formaggio. Vedi, non mi credi. Ciao Mari, dimmi un giù. Per forza non si crede, capito? La cosa che il medico suo è un veterinario, capito? Così che quando fa le punture, gli fa le punture quelle grosse perché i fili non gli piacciono più. Piacciono quelle grosse adesso. Ah no, grazie, a mio davvero un veterinario ti l'ha fatta la puntura. Se ne ti l'ha fatta, no. Vittorio, ma con te ci sono ragazze? Vittorio. Sì, dimmi. Ho detto, con te ci sono ragazze. Non ti ho sentito, parla piano, parla dolcemente. Ho detto, secondo te ci sono ragazze. No, ancora è fresco, ballo. No, ho detto, ma fidanzato sì. O sei un taginteso? Oh, Giomari, chi tu? Non mi intendi, Giomari, dimmi tu sei fidanzato. Ha detto se sei fidanzato, capito, detto Luca. No, fidanzato, sono sicuro, sei un fidanzato secondo te. Hai capito, Luca? Sì, già è giovane ancora, dai. Già è giovane, ha voglia, già non ha tempo. E chi era quella signorina di poc'anzi? Chi era? Faccio qui, sono un cazzo, voglio 16 anni, secondo te, giovani sono qui. Già sei giovane, noi siamo più umani di te. Mi fai Bacchiso che fa 32 anni, però Bacchi avanti. Ehi, il più piccolo sono io in questa famiglia. Il più piccolo, no? Piccolo e nero, capito? Come mi stai ascoltando stasera? Col gommone sto andando, non col gommino, col gommone, come sto andando? Da me è perfetto. Giomaria non lo so perché l'ho chiamato un paio di volte prima di iniziare, nulla va. Giomaria, ma male mi ascolti? Si alza appena la voce è meglio, dai, io ti sento bene, ma che... Però parli a voce bassa, per cui si parla più forte e meglio ancora. Provo a parlare più forte. Sì, rauco solo, Gianmarino, rauco solo, mal di gola, lo posso scrivere. Isa, cosa grave allora, bacchie. Allora, chi mi bisogna graziare, cosa vi ho? Grazie, vi vino. Chi mi vivo la pillola? Ma la pillola o il coso ci vuole? Una supposta? No, ma allora mi vivo la pillola blu. Ah, pensavo che era la supposta. Questa Maria, la pillola mi vuole supposta. Aspetta, ai nocchi. Cosa hai detto Vittù? Fai parlare anche agli altri, cosa hai detto? È il tempo che ti rilanciano Vittù, se no qua parliamo uno sopra l'altro, avanti grazie. Prima va la febbra qua. Guarda che è uscito un nuovo farmaco in farmacia, dai due spruzzatine per la gola e sani in giro di 2 dì sei sanato. E qual è Gio? Qual è grazie? Non me lo ricordo il nome, è una bomboletta, c'ha una cannetta, la Atrizzi, Fruzzi, e io la devo comprare, deve essere buona, proprio per il mal di gola. Fatti tu, con lo spray, quello fa molto bene. Ce l'abbiamo noi lo spray, ce l'abbiamo, come si chiama Mari? Tanto un verde gola. E vabbè, non fa subito effetto, comunque un paio di giorni, 3-4 giorni ti passa, ma quello vabbè, te, diciamo un po' il dolore te lo fa passare, certo, ma poi ritorna. Ma ho visto nella pubblicità quello che sta dicendo Graziano, è occhi per gola. È buono, ce l'ha mia cognata, te l'ha preso in 2 dì e l'ha fatto un bebè. È buono, o se no, se c'è il bicchis in crema, te lo spalmi prima di andare a letto, in pistorra, te ne metti un pochino nel naso, a domani a mezzanotte sei sano, perché lo respiri proprio a pieno tutta la notte, capito? No, grazie, stai sbagliando, io stasera faccio un'altra cosa, vado alla Glucca, vado. Da cosa di Nino Costa e chi mi pensò i medicini tutti uguali e io ho anche quel bici in pomata e lo usate già mi ha fatto sempre parlando di raffreddore a parte l'aerogiochi ma di basso poi alla fine mi ha dato anche l'antibiotico e gli ho preso 5 antibiotici il medico, anche se no non mi bastava. Ah, Bacchi, tu li sei intendi a Graziano che vivo questa di là, non giusto? Ma io non ho giusto, ma ce l'ha compresa, però lo vedo, ma lo voglio far sapere a tutti. E allora, il cellulare a che ora andava, Bacchi? Ma che ora andava, Graziano, non mi sono problemi, andava la Grucca, tutti i malattie passano, e di più li ho malì. Ma non si crede Graziano, bisogna di più proprio sentare bene il capo, la malafede la buona tratta è due. Ehi, la mia signora Giovanna mi chiamava quando travagliava in falegnameria, Graziano, e dico, bene, andate via, mi dice, a fai da sbirlo con un cellulare, e sbirlo era là, in uno a chi va via un aereo, e dico, con un cellulare, e un cellulare. A terra la rivia! E tu diri ririno! Bebe! Vito! Vito! Aspetta! Vito, che stiamo parlando di cellulari! In pelle! Oh Vito! Però aspetta che ti passi il microfono però! Se tu parli sopra gli altri non si capisce niente, capito? Devi aspettare finché non te lo ricevono il microfono a te, allora puoi parlare. Oppure quando non stanno parlando puoi dire la tua, capito? Se no non si capisce niente. Capito, Vito? Mi raccomando, non fare questa grazia, che graziano pure ogni tanto sopramodulo a noi, capito? prendo il bicchiere di ritico con la mazzetta lì, a chi fa un ritico troppo, troppo movibile, hai capito? E se lo fanno a te pure, Occhio! Avanti, c'è il macchino! Ehi, questo è ritico, come bisogna fare a Graziano, che castigheggia tutti. Graziano, andiamo a castigheggia tutti. Bisogna passare il dito. Vediamo adesso, andiamo da Vittorio. Avanti, Vittorio, falla! Ma ci ho compreso, sei ritto? Ho preso le macchine, di tu si difende il tubamento. Avete il mio baracchino. Avete l'antennone lì, lì Luca. Perché voi state con l'antennino, io con l'antennone. Anzi, col gommone. Compreso è Vittu, si sta avvitando il gommone. Prima di finire la conversazione mi devo entrare i vostri numeri di telefono perché poi mi servono, capisco? E conosco, mi servono i numeri di telefono. E registra tutto, registra, avanti Giovanni. Che aspetta che proviamo a chiamare a signor Torres, se c'è rientrato. Attento signor Torres, niente da fare. Avanti, lo chef! Io non ne ho il telefono, Vittù, Non ne ho. Non ho la possibilità di comprarmi un telefono. C'avevo prima, c'avevo il 2007, Motorola. Adesso mi si è rotta l'antenna e adesso non c'è il telefono. Appena, ti do il numero. Capito, è Vittorio. Ehi, così, Bacchi, e oggi cosa hai seminato? Grazie, aspetta un attimo, sto parlando con Vittorio, perché ti trometti tu, delinquente? Ti faccio venire la polizia a casa, mi occhio. E la risposta? Non gli dà il tempo, è diciamo inesperto, no? Anche lui ha, come si dice, il coso, fa Napoli. Ha il diritto di imparare, no? Aspetta. Avanti Vittorio. Non c'è, riprende Giovanni. Vittorio era caduto dalla sedia. Si sta rinfrescando la bocca, che c'ha la bocca asciutta. Così è Bacchi. E senz'altro, sta dando una rinfrescata. No, sta cercando il taccuino e la penna per scrivere il numero del telefono. Capito? Perché deve registrare. Così se non senti alla radio si sente il telefono. Vittu! Non gli dare il numero del telefono qua, Non ti preoccupare, non so come si chiama. Mi raccomando, Vittorio! Grazie! Com'è che si chiama tuo padre di nome? Grazie, ho sentito! Tuo padre di nome, come si chiama? Sì! Ah! Cosa, Grazia, non ti ho inteso? Io ho chiesto... Il nome di tuo padre com'è che si chiama? Fabio De Palmas, io lo stesso faccio di Palmas, e la madre lo salva a Carboni. De Palmas, no, ne conosco uno De Palmas, però abita lì punti, autista. Ah, De Palmas o Palmas? Vittorio, De Palmas. È il ritardatario, A momenti parte subito, a momenti è il ritardatario. Vittorio, mi senti? Sì. Ho detto, sì, di Palmas o De Palmas. Bravo, De Palmas. Ho capito. Ma abiti a Pisa? Ho capito. E lì a Santo Sacco con Mario Zusinku. Bravo, bravissimo. Vabbè, qualcuno, Francesco Fuis. Bene, andiamo a vedere. Vabbè. Avanti, Giovanni. A tratti, lo sento, Lo sento a tratti. Vediamo un po', signor Bacchisio. Capito. De Palmas. Non è c'era un zio cacciatore, no? Vittù. C'è il cacciatore, Piero Canasciani, conosce? Roberto si chiama. Vittù, Roberto si chiama. Piero Sai. No, negativo. Avanti, Graziano. Chiacchiera tu. No, Vittorio ha abita vicino a Sabacchino, così è Vittorio. Bravo, grazie, hai detto la cosa giusta, arrivo proprio lì. Ehi, quella palazzina di fronte, così è Vittorio. Ya, gli brividi a B2, no? Se mi cazzo, minimo mi basta il vivi, cazzo. Quindi, ripeto, non mi basta. Io già lo so dov'è. Luca, capito mi hai? Non è dalla parte dove c'è Mario Lucio 5, è dall'altra parte lui. Adesso volete sapere a che cosa mangia la notte? Boh, Bacchi! Sì, devo farlo, cazzo, vai in giro! Bacchi! Sì, sono proprio duriamo, Giovanni, sto parlando Vittorio. Adesso voglio sapere a che cosa mangia la notte. Di tutto bisogna dire. Di tutto. Vediamo se c'è Marino. Marino, detto che si faceva sentire verso quest'ora. Marino? Marino, ci sei? Paolo, c'è meno 27, Bacchi. Aspetta. Oh, Bacchi, non c'è nemmeno 27, Marino. 27 è acceso. È a basso volume, adesso vediamo un po'. Torre senza motore non c'è, ma Giovanni. Ettore, quello gommone in mare, chi va a farsi il giro in mare, un gommone? A pescare anguille è andato. A pescare anguille è andato con gommone stasera e allora è ancora non rientrato, forse stai saccando le anguille, capito, perché ne ha buscato troppo. E allora? Ma non ti immagini, andiamo a fra un mese di torrando dal tuo, ma cosa? Così mi mattano già a torrare un busso. Ma chi? Io non l'ho compreso, Non ce la metto, non ce la metto, no, che è? No, il 27 lo fai Marino. Avanti, lo riprendi tu. Un attimo, mi sto misurando la temperatura, se c'ho febbre, mi sa di sì, avevo faccio un freddo intorno. Misura giù, la temperatura, noi non fa la salire però, cerca di abbassarla. Avanti, Giovanni, riprenditelo tutto a tu. Ok, ma cosa hai combinato oggi campagna, ma chi? Non mi direi che li zappendino. No. Sapendi no, un po' come va mi ha sbagliato, fa intanto quella vasia, dopo mi ha troppo i rognoli, poi basta, molla tutto, non fa più nulla. Hai fatto bene, hai mollato tutto, ma col cespugliatore? Sì, il cespugliatore, ho il cespugliatore. E poi mi è capitato quello grande stasera, perché il piccolo non voleva camminare, si è ribellato, lui se no, il dietro si è travagliato troppo, ora mi riposeggio. Caspita, e ogni tanto si sentono male anche loro, capito? Mi da me a uno io, io l'avevo pagato poco, l'avevo pagato 150 euro, dall'abbrico di città mercato, era in offerta, però per 2 o 3 anni Caspita era una meraviglia questo cespugliatore, non si fermava mai, cazzo, era un prima colpo, ma sì, poi lavorava bene, dico che era una meraviglia. L'uno chiamava un altro, però finché stava lavorando ha lavorato bene, dopo 2 giorni sono andato a metterlo in marcia di nuovo e non ho voluto partire più. Allora giù traggio un boccato da isso di cose, no, che ha sulla Monti Lundi, chi si è visto a San Giuseppe, 25 euro e me l'ha posto a posto, ma voglio vedere già un anno fermo, voglio vedere se hai solo a pigliarlo, se passi. Sì, e chi non passi, a passi, se è tutto dove a passi. No, io nasciamo da 34 cc e uno da 25. Chissà da 25 oggi si è ribellato, l'ho potuto andare. E a camminente si è chiudato, non ho potuto più andare avanti. E tu fai ma riposeggio dei drommi, c'è bell'altro. L'altro è pesante, invece che devo giocartelo proprio. Non ti accorgi neanche che stai lavorando. Oh, io hanno aggiunto, l'hanno aggiunto i due, uno e dopo uno ancora non l'ha aggiustato, alpino è. La 40 e 45. E dopo lui va qua dentro la scatola, macchina, non l'ha idratata ancora, e la già 2 anni e più l'ha dentro la scatola. No, non ha già attitudito, quando la tende di attitudini, capito? E uno dopo l'uomo rispetto che l'ha ancora dentro la scatola. Per cui non mi preoccupo, quando non funziona funziona l'altro, capito? Per cui non mette il spugliatore e faccio lo giambo, però chi durerà 3 o 4 anni ha camminato sempre perfettamente. L'anno passato ha fatto il suo travaglio, noi punto bassi, e dice che sono le membrane, ha chiamato il signore le membrane e l'ha da punto. No, c'era posto a posto, anche visto che è partito subito. Ho chiamato le membrane a parte. No, io facevo un Kawasaki, 34-35. E viaggio 34 anni, la faccio porto mai in nuca. E ancora andenti. Ehi, ehi, mi dà un po' grazia. Ehi, ehi, ehi, anche al mio gli devo cambiare le... Mi puoi stare tutta canta la dinna. E io non ho dimostrato il carburatore ed era pulito, tutto controllato, lucido, fiammante. L'ho ripiazzato, manco morto è partito. Rigori, ma forse le membrane nuove, a 10 membrane, sono sottili sottili, una volta che si asciuttano, chi l'ha idratato è davvero bene e si seccano. E perdono quella pattina che c'hanno e non parte manco se ti ammazzi. E non ce l'ho io, fermo in garage, non ne basti. Ehi, ma io l'ho portato subito lì e già me l'hanno riparato, anche se ho pagato 25 euro, però me l'ha messo a posto, grazie a Dio, adesso vediamo un po' quando lo riprendo. L'anno scorso ha lavorato. Bene, adesso vi do un po' quest'anno quando lo prendo cosa mi dice, cioè, speriamo che funzioni bene. E se io mi sento rapportare, cosa vuoi fare? Che nuovo viene? Io lo sai che quando lo uso poi lo pulisco bene, catta, e prima di metterlo a posto li faccio con su anche la benzina che c'è dentro il carburatore, capito? E per cui rimane asciutto, e vediamo un po' adesso quest'anno cosa succede. Speriamo bene. Avanti, signor Bacchi. Vediamo un po' se Luca la temperatura l'ha misurata. Luca, finita la temperatura. Allora, fai brevone, poi c'ho freddo, maritana la cosa. Ho detto che febbre non ne ho, e ho freddo, sembra strano. Allora copriti, è freddo, capito? È freddo, si è preso. Metti il coperto sopra, accendi la stufa, accendi lo gas, non andare in giro, non fare il birichino. Capito, Luca? Avanti, Vittorio, ci sei? No, vabbè, già sono al caldo. Bacchi, la stufa è là che già sta facendo il suo dovere, io sono dentro il letto, poi se faccio un po' l'acqua della borsa, la borsa dell'acqua calda, a chi vuole un freddo, guarda un cuore, dai, c'ho freddo, i brividi di freddo. Beh, vuol dire le svolte di temperatura hai preso tu, hai pigliato un freddo. Questo Gianmaria è dormito senza scarpe, è pagato e si è pigliato la roba di a Luca. Un attimino, grazie al ripreso, la riprendo subito. Ehi, comunque l'ha detto anche stamani, di stare almeno 3-4 giorni al caldo, al letto, cucati, a riposo assoluto, senza uscire, perché questa influenza è brutta, capito Luca? Vada, se no non ti basta, mi pare che ti sia abbassata, magari domani a mangiare se ti intendi meglio, però invece in realtà non è passata, per passarti deve rimanere riservato almeno un 3-4 giorni, come ha detto stamattina quel medico al televisore. e prendere, assumere tacchi pinine, vari sciroppi, vari aerosol e vedrai che ti passa. Però se tu domani... E non toccare un burrone! Non devi uscire, capito mi hai? Però Graziano, non toccare il torrone! Uscire, per prima cosa devo consegnare un televisore che non, diciamo, la vetta non... E più a prendere dei soldi, qua che mandava a Medina e poi venire qua, purtroppo sono dovuto uscire, ma ero coperto bene, cuffietta, sciarpa, due giubbotti, poi il pigiama sotto, la felpa, e un tappa due pantalone con il pigiama sotto, ero coperto benissimo, lo so, ma è come le stazioni a casa, lo so. Ehi, riprendi, chi è che mi stava schiacciando? Vittorio, vieni avanti, cosa hai fatto? Tutta la sera stirando, stendendo la roba, piegandola, sempre pulendo, se no qui ti picchia la moglie. Un colpo di mattarello, qua devi lavorare, se no sono colpi, mia moglie ti frusta. Ho capito, io sono all'angolo 9. Vedi. Seconda media sono. Vittorio ha tolto la palla e ancora 10 volte l'hanno bocciato. Non sa neanche la tabellina, chiedili la tabellina, quella del 5. Dillela, Luca, la tabellina del 5. 1, 5 per 2, 2, 5 per 3, 3, 5 per 4, 4, 5 per 5, 5. Hai visto? Sentito live tu? Io, allora se mi dai ritirare gli risulta, non ho più problemi. Pure a mente. Basta che io vada i biglietti, poi già a mente, se come conto bene. Ma chi già hai visto che bravo Luca, matematica? Io adesso me lo porto in campagna a contare la verdura. È così bravo contando. Poi, solo che sta solo la tabellina del 5, le altre non l'ha entrato in capo. Quella del 2, 2 per 1, 2, 2 per 3, 3, 2 per 4, 4, 2 per 5, 6, 2 per 6, 8. C'è anche quella del 2, grazie a... sta facendo progressi, a Cannolo è promosso. Forse c'era con quella del 2, per pacchi, aiù! Gio Mari! Sentato un attimo, sì, grazie Luca. Ah, si è sentato, capito. Vabbè, cosa vuoi fare, purtroppo. Siamo vivi, dobbiamo soffrire, vero Pacchi? Sicuro che devi soffrire, se no sono avanti. Se si soffre si va avanti, se non si soffre non vuol dire non stai andando più. Giusto, infatti, bisogna soffrire, no? Vabbè, beh, grazie a non aver fregato tutti, sia di te, Gio Maria, di tutti. Tu passa che immagini e visti, sono tutti vero grazie. E allora, oggi visto di Graziano mi ha detto, mi ha fatto la cantilena e noi purtroppo più di quello che stiamo facendo non possiamo farli, signor Cambù, mi dispiace, però si deve tenere molto attento, riservato, non farci fatica, sforzi, perché noi più di quello che stiamo facendo non possiamo fare. Ed io, e dunque, ci sono sempre bussato. c'è la febbre, dai, non è alta, 37,9. Ma la sera alza, la sera prende alzare, vero Bacchi? La sera sale un pochino la temperatura, la mattina scende, ma la sera tiene a salire. Ma basta stare riservato, è già ripassa. Certo, non è una febbre alta, ma sempre febbre, sempre qualche lineetta c'è di temperatura. Dunque bisogna stare un po' riservati, se vuoi curare in fretta, se vuoi cambiare il letto bisogna fare in giro. No, ma io per il giro non ci devo fare niente, assolutamente. No, ma c'è freddo, per noi che non siamo abituati, appena scende uno meno, forse magari nei tempi tuoi, ma chi? nei tempi che furono, magari il prete sa chi pia di più, ma va, noi giovanotti, dai, nel senso, tipo questi ragazzini di oggi non lo soffrono il freddo. La prossima mattina c'era freddo, quando scese in campagna era meno 3, in campagna segnava meno 3, se partito da casa era meno 6, in campagna meno 3. Leva mano. Attendi la stufa, è stato un po' al calduccio. Certo, meno 3, meno 6, sì, c'era freddo. Vabbè, grazie, lo vedi, lui non esce, sta calduccio, beato, e chi lo tocca a lui? Bello, grazie. E allora, a me se ci vuoi che mi date qualche appuntamento per la prossima volta, dico, mi non me lo dia alle 8 di mattina, massimo il più tardi, metta alle 11, a chi ci mi rubore all'otto, mi nuovi non vi vengo, infatti me la metta alle 10 e mezzo il prossimo. E questo di oggi era alle 11, anche quello precedente. Abbiamo questa pigiamini a Rigi di Mazzaro, banda a controllo. Non saranno. Perché? Allora, io stai di Madonna freddo, ti cancareggi. Forse uno non sta bene. Comunque ha appiccicato un bel di gente questa influenza, un bel di gente, un bel. Vabbè, è toccato a me questa volta, eh. Ma io sono stato anni e anni senza prendere influenza, è come questo io, questo è un bel leggero, vedi? Io quando vado al circolo non c'è aria condizionata, aria calda, nulla, e me ne sta maniche corte, sì, c'è un po' di caldo, quello sì, però sta maniche corte dentro. Io mi ho fatto anche il vaccino, dell'influenza, Alex Manicuno, tu non ne fai mai. Ma dove si fa? Dove si va a farlo? All'ex manicomio, su a Terra Secca, all'ex manicomio, non lo usavi. Stanno tutti i vaccini, buonasera a tutti. Marino, avanti. Forse non mi sente. Ma te lo fanno gratis a pagamento, eh. Era terminato, però lo potete ritrovare in farmacia a pagamento. Adesso non lo so se ce l'hanno di nuovo, devi salire all'ex manicomio e chiedili, se ce l'hanno te lo fanno, ti porti la tessera sanitaria e non paghi nulla. Ma che vaccino deve fare, grazie? L'antinfluenzale, quello che ho fatto io. Non c'è bisogno neanche andare al manicomio nel via vestito. Bastano, vabbè, io adesso quest'anno l'ho fatto a cosa, la mia dottoressa, ok, a me me lo fai, è obbligato, a me me lo faccio ogni anno, però quando è anche in piazza Logorenzo, c'è il coso del dottore, vai lì con la tessera, che se non te lo fa, non c'è, non, te lo fa, io due o tre anni me lo facevo su, passavo, le davo la tessera sanitaria e me lo faceva. Ok, comunque buonasera, avanti, grazie. Li aveva già finiti, dunque ha già fatto bene che me l'ha già fatto che dà, ma di te ha fatto bene, capito lui, anche il tuo medico di famiglia ce li ha, non lo so se ce li ha, devi chiedere anche al tuo medico, se ce l'ha te lo fa. Luca, un attimo, ti chiedo scusa, fammi lo squillo Luca che ti devo dire una cosa. Capito, visto. Ehi, ma chi se tu fatta lei quel vaccino? Io Graziano, l'ho fatto io il vaccino, l'ho fatto dal mio medico, capito? Sono andato al medico mio, mi ha dato il vaccino e mi ha fatto il buco, mi ha bucato, capito? Marino, ci sei? Certo che ci sono, ciao Bacchisio, ciao Graziano. Cioè Luca, io non ti ascolto, c'è anche Vittorio se non mi sbaglio, ma ieri ascoltavo, ma oggi è negativo, non so se lui mi sta ascoltando, ok, comunque buonasera anche a lei. Bene, io il vaccino l'ho fatto al mio medico, comunque se il via Vestito non ce l'ha, basta andare in piazza Logorenzo, grazie, in piazza Logorenzo cerco il dottore, le dà la stessa sanità e te lo fa, tutto qua. Luca, se mi stai ascoltando fammi uno squillo al telefono, ti devo dire una cosa, bene, avanti, grazie. Ehi, vabbè, io me l'ho già fatto prima di Natale, pure me l'ha già fatto, il mese di dicembre l'ho fatto, che mi aveva mandato a dire il mio medico di andare e mi faceva il vaccino, però non mi sentivo bene e non l'ho fatto. Dopo due settimane, dato che ero lì all'ex manicomio per altre cose, ne ha approfittato, so che tra dieci, capito, Alba? Sì, anche lì lo fanno. Ah, io l'ho fatto dal medico qua, senza andare molto lontano, capito? Marino, ma Vittorio, lo ascolti per giù. Scusate, entro subito, grazie, che sono Zeffo. Eia, eia, ma Gian Maria si è assentato ancora. Maria è tutto assentato, è sparpagliato, non è assentato, è sparpagliato. Eia, eia, oggi mi l'ha fatto il trombolo con i buchi, lo buchi. Mi ha fatto vedere tutte le stelle, un mio dolore. Io non ho inteso dolore, grazie, come mai tu hai inteso dolore? Prima va provato questo imbecille, non verrà di Cile, la vita lasciare perdere. Da poi me l'ha fatta l'uduttore ed era giù una cantina di branata. Però non acciappava la vena, non riuscì a acciappare la vena. Non la vena, l'arteria. In arteria te l'ha fatta, via. Ebbene, non è mica dolorosa, no. Cosa un buco come tutti gli altri. È dolorosa sì, perché lì nel polso ci sono tutti i tendini, no? E quando buca si imbaglia, ti buca un tendine, tu mi adorori, e insomma dopo di un po' già c'è riuscito, infatti va già ancora un girotto, tutto imbrigato, ha crescito una siringata di sangue, Maria la Fontana, Maria, la Fontana di Trevi. Maria di Pisa. E allora, avevamo detto di andare fra un mese che mi devi tornare a controllare, la gente si è venuto 10 giorni fa, oggi, adesso fra un mese, sì, va bene. Va bene, fra un mese sei guarita, chissà, e dunque, se no ci hanno bevuto, invece va alla destra, va a sinistra. Cambi posizione. Sì, se devo ammazzare prima dell'ora, grazie. Cosa hai detto, Giomari? Non si è capito niente. Ho detto quello che ti devo ammazzare prima dell'ora. Chi si immagina di aspettare due, che pezzo ricevi? Non passare, no, grazie, non passare. Di dire se non posso, si visita Edu. Dile così, si visita lei. Ah, ti si controlli lei. Va bene, ma chi riprende? Graziano, è la puntata di Santa Maria di Pisa che uscita invece di puntata di Trivi. Bene, meda, vediamo un po'. Vittorio, riprendi un attimo di quel Rix per me, riprendo subito. Riprendimi tu. Eia, eia, meglio senti adesso. A Caggio Maria più bene lo senti. Già si sente bene adesso, vero Giomari, tu bene o sì? Già lo sento bene. Vediamo un po' se è rientrato Tore. Tore ancora con il gommone. Mi sa che è della ghida che ha peccato. Vai Lu. Luca è al telefono, 2 minuti vado in ufficio. Ah, d'accordo. Allora faccio vedere il cielo, stasera, grazie. Cosa? Ma non mi senti, so Gesù, oggi, ma stavo là, la madre dei sciacquali, gli avessi. Aspetta che vado in ufficio. Camina, l'ho fatta la bocca, addosso. Invece il marino rientrato, Ho chiamato il signor Tore, ma mi sembra che non ha voglia oggi di entrare. Se la prende la signora, sono le 7:20. Dunque è andata a prendere la moglie senz'altro. Ma deve essere andata ad accompagnare un nipote a San Giovanni, San Giovanni, a giocare a pallone. E deve essere a quelli che dà. Ah, allora chissà, allora no. Allora a pigliare un nipote. Non gli avevo nemmeno. Anche quello bisogna fare. Eia, eia. Ma vediamo che ci faccia sentire prima delle 8. Allora, Luca al telefono. Chi già è andato in ufficio? Chi ha su Vera? Ah, Marino Vera. Marino, a chi sei? Marino se ne è andato, è tornato subito. Vittorio. E Arufresco, Vittu. E Arufresco, bella fresco, fuori ho dato da lesiare, Arufresco. Ma non dai freddi chivi. E beh, già i miei Vittu. Ah, ho capito, allora tu ne sei andato. E vabbè. Vai, vai. Sto andando a vicino con Francescano. Così è Bacchì. Hai ragione. E ciao, c'è andato la palaiazza lì. I canotti non la palazzano. Ma i canotti fa, è pulita l'aria. È pulita, i canotti siamo di bianco natale. Ah, ma sapevo la lebbe, burra, sapevo. Tutta l'erba bianca bianca ci appena ma la mangiare. Non la brucia ma la zucchina. Non la brucia. Ma se non mi brucia la fava, andava bene. Eh beh, se comincia così la brucia si catta. Purtroppo. Vedo come te fate, è più si succede. Ma è più tardi la buona e peggio è. Eppure mai già stai chi viene frata mai la giù via, parendo in campagna sì, e da me è nulla. A Canno invece ha occupato le nostre mani, tutto bianco io, e tu io che ho fatto neve. Sotto qua! Ghiaccio, non è neve! Ghiaccio, allora, domani come ti avete fatto neve, bianco tutto! Ehi! Ma quando sarà la notte sicura, guarda che fuori! Quel freddo che c'è, è freddo di neve, e domani rimani con qualche altra lì, e mi sa che ha fatto vedere gli occhi di neve. E noi ci pigliamo gli occhi di neve, e ce la vendiamo la neve da voi, ci ha ordinato le buci, due da mettere in freezer, e pieno e la vendo. Ben entrato! Eia, ben entrato Marina! E ho impegnato a un QTC, benissimo. Io non sento Vittorio, vediamo se lui mi ascolta. Vittorio, mi ascolti? Sto andando sta. Vittorio, ascolti a Marino. Sì, passi avanti. Marita, vai avanti. Marino, buonasera, ti ha detto Vittorio andare avanti. Buongiorno Maria, buonasera anche a lei. Lei già viene bello squillante qui in zona mia. Vittorio negativo, non si accende neanche il LED, figurati, io lo sentivo, oggi nulla. Vuol dire che si è spostato. Avanti Vittorio, se mi ascolti. Cosa faccio? Poco fa, sono a casa, ero bello un attimo. No, negativo, sai come ti metti? Momenti, ti ho ascoltato momenti negativo. Ti devi rimanere in una posizione dove questa è una frequenza strana. Basta che ti sposti leggermente e non ti ascoltiamo. Benissimo, dopo al prossimo passaggio vediamo. Avanti, grazie. Eia! È bella sentita Marino! Vittu! Già la ginesima un po' caldua, un po' bidendi. Vatti avanti Mario, già mi disendi fino a poco fa. Si intende a Edu Slurampolo mio. Marino, mi senti a me? A te ti ascolto benissimo Luca, quasi vi sparato, ma Luca, ma Luca, Vittorio a momenti, ma non ascolto, a momenti vedo il letto, si accende, a momenti no, deve rimanere fermo, non si mette vicino alla finestra, se no non ascolto. Io qua rischio il linciaggio, dai, che si sta guardando la televisione, la mia 25, se vengo in ascolto, se non mi cudi chissà. Vabbè, già fa bene una suscia Luca, c'è freddo, no? A me ti scalda un po', dai, ti scalda un po' di base. Avanti, signor Bacchisio. Buonasera Marino, ma mi ascolti? Sì, penso che ci arrivo di giù io oggi. Mi arrivi sparato, signor Bacchisio, forte e chiaro, insieme a Gio Maria, Graziano e Luca. Mi dispiace per Vittorio, io non ascolto. A momenti, secondo come si mette, non ascolto. Non lo so. Bisogna rimanere in una posizione che non si deve muovere. Bene, lancio al signor Gio Maria, avanti Gio Maria. Ok, sta andando all'oratorio qua, alla Teodoccia, capito? Forse per quello, in mezzo ai palazzi, non arriva, capito? Lì. Dai, io ne approfitto, chiudo che devo fare cosa, dai, ne approfitto, per cui ci sento molto male eventualmente, dai. Ciao Mari, buon proseguimento, saluto di casa, saluto anche a Bacchisio in casa, Graziano. Luca e anche a Vittorio, vai. Riprendi tu Mario, dai, chiudo, ci sentiamo domani, se Dio vuole. ciao a tutti. Questa voce bella squillante, oh, Gio Mari, mi sta arrivando sparato, mi stai proprio facendo soldo, benissimo. Ciao Gio Mari, ben sentito, saluto in casa e domani si concilia, bene. Avanti, signor Bacchisio, per i saluti a Gio Maria. Ciao Gio Mari, buona serata, buon QRT, buona cena, buon tutto, saluti ancora in famiglia. A domani si concilia. Graziano, avanti. Ciao Gio Maria, buon tutto, buona cena, buon tutto. A domani se coincide, saluta i bambini e dagli un bacione a tutti. Ciao. Avanti Vittorio. Sì, ci sono. Ah, ci sei, ti ho ascoltato adesso, Però ti devi rimanere fermo, se no vai via come modulazione. Avanti Vittorio, ma mi ascolta a me. Ma ti devo spostare, ti sento tipo come se fosse qualcuno, no, ti sento pochissimo, stati un po'. E qui mi arrivi a balzi, Vittorio, al balzi, voi ti stai muovendo, se non rimani fermo è una posizione negativa. E stavo dicendo, grazie, ma quello che tu mi hai mandato a WhatsApp io ce l'avevo già, hai visto ogni giusta che l'ha cutto? Ehi, quella è la moda nuova, ma quello veramente si faceva anche quando guidavo io ancora la macchina. Infatti all'incrocio in occhi mi zio mi registrare il caso da un finestrino e la giocuto un capo a terra. A chi mi tagliava la strada lungo viale Porto Torre, se mi si imbecille, era convinto. La giubbotta ha preso e l'ha giù bloccato in un semaforo e l'ha giù fatto così. Alla sei giusta, chi così ha ammazzato proprio, Boh, che è giusta, E almeno si è scaldato un po', dai. Avanti, signor Bacchisio. Allora, tutto bene. Vediamo un po' se Luca, Anna Luca e Corix sta guardando la TV, non lo chiamiamo neanche, non lo disturbiamo. Gio Maria se ne è sentato, Tole Squalo non si è sentito, vediamo un po' se risponde, Tole. Eia! Adorone, non vengo Tole, è morto. Vi siete sottopopolati, cosa stavi dicendo Graziano, scusa A chi vi siete sottopopolati con Graziano? Vediamo se il signor Vittorio mi ascolta, Vittorio? Sì, dica tutto. Negativo, quando schiaccia vedo che si accende il led e poi smette, boh, non lo so. Avanti Graziano. Perché bisogna vedere dove Vittorio, in che punto sei, che non si sente Marino adesso. Sono fuori dall'oratorio, grazie, ma un po' che... perché ti pezzi non mi appendono... dopo farmi da una parte all'altra, ma non sento niente. Marino non lo sento, la Gio Maria lo sta appena, ma non lo sento un granché. Penso che sia un po' la linea occupata. Ehi, Gio Maria ha chiuso. Marino ha detto che è all'oratorio, fuori dell'oratorio. Oh, lì è latte dolce. Evidentemente no, in che punto si sposti tu non ti riesci a sentirlo, perché lui è proprio fuori dell'oratorio. Ho capito, a momenti l'ascolto, ho capito, a momenti vedete come si muove, negativo. Bene, Vittorio, boh, probabilmente ti conosco, non lo so. Va bene, avanti, signor Bacchisio, in campagna hai zappato oggi, no? Ehi, ha zappato, anche quell'amico tuo non ci è venuto, quindi. Bidone anche stasera, capito? Vito, spostati nel campo, vai verso il campo, la zona più aperta, tu sei sotto lì, al palazzo. Vai su, vicino all'antenna della cosa, della telefoni. Al palo dei telefoni, spostati verso quella parte a vedere se ti buona. Marino, fatti avanti avanti adesso, vai Rino. Li hai ascoltato adesso? No, negativo, lui è chiuso, c'ha l'oratorio, c'ha la zapparete del coso della chiesa, dunque lui dovrebbe essere al chiuso. Lui si deve mettere vicino al ripetitore dei telefoni, oppure vicino alla rete del campo, che è libero. Prova Vittorio un altro passaggio. Adesso Marino ti sentivo un pochettino, guarda, ti sentivo appena, ma... strano, ieri si sentiva così bene, perché deve essere, cioè, ci sto telefono dappertutto e sto occupando decisamente la linea, quindi non è che ci senta un granché, Mario. Sì, adesso ti ho ascoltato un po' di più, un po' da balzi, ma un po' di più ti ho ascoltato. Se rimani fermo e ti sposti leggermente, poi ti ascolto chiarissimo. Avanti, ma chi è quello di sicuramente è arrivata la moglie e l'ha chiusa a chiave? L'ha chiusa a chiave, l'ha messa dall'armadio, dunque fino a domani non esce con la persona. Bene, avanti, grazie. Ecco! Avanti! Sì, buonasera signor Marino. Buonasera signor Gio Maria e a chi altri. Buonasera signor Toi, Gio Maria ha chiuso e ha fatto QRT. Adesso vi salutate. Sono io, Bacchisio, Vittorio dall'Oratorio e dottor Graziano. Ti lancio il micro e fai girare chi vuoi. Poi Mari. Dimmi. È entrato Tore. Già l'ho sentito, lanciate il micro a Tore, punto. Ho detto di modulare e di mandare chi vuole. Signor Tore, entra allora in zonchi, vai l'otto. No, veramente non venne cosa a agire, mi sono liberato, adesso mi sono liberato. Cata, uno non può far nulla che subito due l'ammazzi. Andare. Allora, signor Becchi, buonasera. Gio Maria e a Vittorio. Quindi, cosa vuoi di più? Gio Maria, scusa, ma chi? Gio Maria, ti ho detto che ha chiuso, Tore. Ha chiuso e doveva fare cosa. Avanti, Bacchisio, per signor Tore. Ehi, ciao Tore, buona serata. Gio Maria, QRT, che cosa doveva fare cosa? Cioè, sparpagliato. Ok, allora, signor Tore, come mai a quest'ora? A quest'ora si accendono per le galline che vanno a dormire. Tu hai attesa, va, passava tutti, fa la chiusura, Tore. Capito, grazie, fa la chiusura. Ciao, Gai, la Tore, l'avevo preso. No, mi ha mai appiccato il televisore al muro. L'hai autorizzato, tasso chimico hai messo. Ah, tasse di normali, cata, paghi su chi pesa sul televisore. Io l'ho messo, dicendo, pensavo era perché era pesante. Ho 80 pollici. Oh, ne venga che lungo ha fatto, in alta montagna. E anche qua in zona mia sta nevicando, guarda, ho piazzato già le catene nella macchina per domani mattina. Che la mattina è troppo ghiaccio, bisogna mettere le catene, se no guai. E ho già le gomme, già i copertoni riscaldati, Riscaldati, avanti, grazie. Eia, ma mi sa che domani ha fatto nevi. A chi fa ea giusta la TV. Nuvola bianca e la neve, non lo so, bisogna vedere a che altezza però. Riprendi tu. Grazie, se tu esci fuori trovi, vedi tutte le stelle, vedi, pura doia. Cata, i noghi non ha fatto neve, i noghi ha abbassato la temperatura, sole, boh. Hai capito? Però deve essere in alta montagna, Fonni, Monte Spada, Fonni. Provincia di Nuoro l'ha fatta. Sì, che sta nevicando in questa zona, Tommy. Poco vi sarà. Ma sta nevicando, Otto. Sì, in cosa nevicando? Di vino. E allora, avanti, Bacchi. Neve rossa però sta facendo, non è bianca la neve, rossa questa volta la fa. Boh. Avanti, signor Vittorio. Bella! Mi tocca spostarmi da un'altra parte. Vittorio, ti chiedo scusa, ma ti sento, ti ascolto a balzi e non riesco a ascoltarti, boh, non lo so. Avanti, ma chi? Deve essere vicino a Ombra, in zona d'Ombra. A me mi arriva poco, vabbè, siamo a 100 metri, arriva con lo scala. Dunque, è tutto lì. Lo so Bacchi, ma voi siete vicino, io sono qua giù a Sentino e so, non so che apparecchio sta utilizzando. Beh, voi mi trovate tutti sparati qui a Sentino. E lui ogni tanto vedo il LED sento il QRM che sta modulando, ma la modulazione è zero. Bene, avanti Graziano. Ehi, fai capace, è chiuso là, che devo farmi risurina, devo fare corsa. Ciao Marino! dai un bacetto ai puffetti, ai bambinetti, fai da bravo e niente di che, ce la risentiamo a domani se coincide, però non entrare all'ora dei pipistrilli, cerca di entrare un pochino almeno prima, capito miai? Ciao dottore, un bacio al bambino, a quel cagnolino piccolo, quel chihuahua. Ciao Bacchigio, domani non va andare in campagna che fa freddo. E ciao chi è in ascolto, ciao Vittorio, a domani. Rilancia Marino, vai. Ciao Grazia, ben sentito, sono tornato in casa, è tutto ricambiato, già lo sai. Sempre in gamba, buona cena, a domani se coincide. Avanti Tore. Ciao Grazia, stammi bene, già ti rarrego una di, ha fatto il bidet, se ti vuoi bene. Ma ha fatto il bidet, guarda Grazia, il bidet sto a fare un giorno. Ma faglielo vedere cosa hai compreso tu, tata, falli vedere un cucciuccio. Ah, devi spiegarti, scusa, non essere malizioso. Hai sentito Grazia cosa ha detto? Che qualche sera te lo porta e te lo fa vedere. Vabbè dai, riprendo il microfono io che tanto la temperatura qua sta salendo ancora di più, dai. Buonanotte, a domani se Dio vuole, speriamo che guarisca domani. Ciao Bacchisio, ciao Marino, ciao Gio Maria, Graziano, Tore, riprendi tu Bacchi, ciao, buonanotte. Oh Luca, fa una cosa, beviti un bel bicchiere di whisky e ti addormenti stanotte. E domani mattina non c'è nulla. Ciao Luca, ben sentito, siamo tutti in casa, domani se coincide. Avanti Bacchisio. Ehi, al defino veloce c'hai, Ciao Luca, buona serata, buona con quel retino. Riposati, speriamo domani sia già guarito, pronto a uscire. Benissimo, chi c'è poi? Tore, avanti. Ciao Grazia, stammi bene, ciao Luca, è ben sentito, ok. Che copriti bene, che non prendere nessun coso, Già ti basta domani, a Vuglia. Vai Mari! Vai Mari, io che fai il freddo. Lo sai che la mattina sto usando il rastrello per togliere il ghiaccio della moto, già lo sai che giù in quella zona di là che dove tu stai scende il ghiaccio, va tutto a scendere. Vabbè, appena di ghiaccio, cosa vuoi che fossi? Catta! Invece no, Ghino, è già più di 3 che non si vede un Mondadori. Mi hai compreso? I noghi, stai diventando un mondezzaio, faremmo abbandonati i noghi, barimo. Basta pagare la tassa mondezza, voi non ne pagate, dunque non vi mando nessuno, così imparate. Avanti Bacchisio. Se non hai notato sopra l'assessore, hai compreso, e poi per forse vedere io alle sorveglianti. Quindi, non pagano mondezza, il turbino non ci passa. Tutto loro hanno lì, sono loro se la cercano la malasorta con la candela. Bisogna, c'è un sito, tu già lo sai, c'è un sito del comune, basta fare e vi dovete lamentare in quel sito che l'assessore non legge subito, oppure l'assessore l'ha comunicato giù l'azienda. Dovete fare casotto, tutto qui. Avanti, tu. Già lo sai dove vado io, vado direttamente dall'assessore, un sindaco. Lo gaggino che fosso, canta che è possibile che si rimanda all'altra roga, se è pulito e no che deve darsi tutto quanto, cazzo, tu piano del gaggino deve darsi sempre. Come al solito, no, Otto, non andare al sindaco Nicolino che è impegnato per le votazioni, che si vuole ricandidare, non disturbarlo con il superiore, è troppo impegnato. Non ti lamentare, qua in 6 giorni non si passa nel turbino, già passa sì, in moto e con la scopa sulle spalle. E c'è il circolo aperto, e c'è il circolo aperto, a Monda a domani. La persona che sta dicendo, se non sbaglio è un infortunio, ha detto che ha avuto un infortunio col bicchiere, capito? Dunque non c'è nessuno in zona, ma chi? Infortunio è, capito? E per quello non ci passano. Ha avuto un infortunio col bicchiere, mi è sceso il bicchiere, dunque è infortunio, la mandano in acuta e va, e lo si impazza, avanti do, chiedo scusa, avanti Vittorio, scusa. Se preoccupate, sono in ascolto, ma il sumavento, cosa? Dai, ditemi cosa ti dipende il sumavento. Tono negativo, sei riuscito a salvare, se non ti ha ascoltato. Vediamo se non so, si sta ascoltato, avanti Tone. Sì, vi siete sopramodulati. Hai capito che io dove sciago? E vedi che alcuni si muove. Già perché ti imbriagoni, no? Ma se arruolati dozzi, se. Il pulsato devi lasciare gli lani. Ma chi è? Quello piccoletto? In baffetti? Sì, io lo conosci, cari, già lo sai chi è. Cimbriagone. Catta, stai sempre nella zona di Nocchi, stai sempre in per un negozio. Sempre che si avvia, birra. E non vi parava a su lungo. Perché il negozio la birra costa un euro, il bar costa circa 2 euro, 8. Lo sai, no? Sì, ma sto attento il buruguiscio, però. Ma com'è si è avviato da anch'io? Ma non c'è nessuno che puri. È un casotto. Dovete fare come vi ho detto, c'è un sito sul colla del comune, basta vi dovete lamentare. Se no mi resta lì su dove sei tu. Tutto qua. Stavo dicendo, Vittorio mi ha detto che io non ho ascoltato. Vittorio, ha detto Marino cosa hai detto? Ha detto che all'ascolto mi sembra. Avevo detto, ma tu mi ha detto così fai? Io ho ancora l'anima, non fai un anno, un freddo, di giù. Ti conviene ritirarti in casa come ti siamo venuti noi. Hai capito? Cosa è freddo, vai all'oratorio, Vittù? Tanto andare a casa, ad andare a casa. C'è la cosa migliore. Aspetta. Vittorio, ma cosa ci fai all'oratorio? Ma c'hai il bambino che sta giocando a pallone? Vittù, devi capire piano piano. Ci sono qua, ci sono i vecchietti, Marino, mi Battisio. Cosa Marino Battisio? Se sono giovane, mio vecchietto sei tu, mio. Allora gli altri zessi sì. Ma dove hanno sta, no? No, adesso in silenzio. Anda bene. Va bene così. Anda bene. Allora, signor Bacchi, piantato avemmo. Ehi, ha fatto, non si sono lavori. Bene, signori, io vi devo lasciare, perché è quasi arrivata l'ora. Mia moglie che mi dice, è qua di tutto. Bene, ciao Marino, buona serata. Ci sentiamo domani, se coincide, oppure ci vediamo, lo vedi un po' tu. Tutto dipende da te. Ciao Tore, buona serata anche per te, anche in casa. A domani, che tu coincide. Caduta la linea. Bene, ciao Bacchi, ben sentito, buonasera. Ci sentiamo domani, se in caso ci possiamo anche vedere domani, se coincide. Bene, avanti Tom. Ciao Bacchi, stammi bene. Sogni d'oro. Saluti, si ridevi va. Anda bene, ci sentiamo domani, alle prossime. Vai Vito! Bacchi! Cazzo, che suedo, cazzo, mi ammazzendi, cazzo, mi sciammi dentro, cazzo, mi rimangono cazzo. E fa così tanto andava per Mattesi. Ma Bacchi, Marino! Ah, Bacchi si ha chiuso, scusa, Ti stavo ascoltando, Vittorio, ma non stai. Dica Vittorio, vabbè, non so se mi stai ascoltando, dottore, se abita vicino a quel negozio delle bombole, chiedi. Ha detto che non ti sente, non ti ascolta, sei troppo lontano per lui. Andava, dai. Vabbè dai, io lo stesso Marie, io chiudo, anche mi sciacciamenti. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao Vittorio e ciao Marino. Ok, riprendo io, dottore, ti ho chiesto, chiedi a Vittorio se abita vicino al negozio delle bombole di Pala per caso. Vittorio, ha detto Marino, se abiti vicino al negozio delle bombole. Ti stimolo di tutto quello che gli attenzioni uno mai. Dai, avanti Marino, dai. Vittorio, Marino non ti ascolta. Mi ha detto di dirti se abiti vicino al negozio delle bombole. No, gli abito a Sant'Orsola, non abito proprio vicino a lei. Senti tu Marino, dolce, ma io ci vado a prendere le bombole, sono io. Ma dove stai dicendo, dove abito io? A Sant'Orsola, non a te. Vabbè, adesso glielo dico. Marino ha detto che abita a Sant'Orsola, hai capito? Ok, no, perché stavo confondendo uno che abita in zona vicino al negozio, va bene, ok, dai, non fa nulla, vuol dire, questa nuova Vittorio, probabile che ci conosciamo, non lo so, vabbè, avremo a volte c'è le cose, prendo un caffè assieme. Bene, anch'io ti saluto, dottore, dai. Ciao, Tom, ben sentito, sono tornato in casa. Ci sentiamo domani, sei concile, ciao anche Vittorio, se mi stai ascoltando, ben sentito, non te lo posso dire, se arrivi a base, comunque. Buonasera a te, saluto l'inquadra familiare. Tone le prendi e quelle di per me anche, saluto anche tu ti ascoltoni, avanti. Sì, ok, ciao Mari, ci sentiamo. Ciao Vittorio, Marino ti saluta che sta chiudendo. Ok, ciao. Ciao Marino, se Battiste se ti auguro una serata, ti intendi uno mai, sto concedo bene, ce l'ho sempre a carattere e ti intendi tu. Vittorio, ti chiedo scusa, ma arriva a Svalzi e non riesco a capire, hai capito Vittorio, ti chiedo scusa, non riesco a capire nulla. Io qua il tuo segnale arriva, ma arriva a Svalzi di modulazione. Ok, se mi stai ascoltando ti saluto e sei tornato in casa e buona cena. A domani sei concile, ciao. Decisio, ancora.